24 mattino. Ancora buona giornata da Irene Zerbini. Un ragazzo di 22 anni, obeso, alcolizzato, malato di cirrosi epatica, poche settimane fa poteva salvarsi la vita in Gran Bretagna solo con il trapianto del fegato, però non ha potuto dimostrare di saperselo meritare, cioè non è stato sobrio, sotto controllo, per 6 mesi prima del ricovero, ma solo per 10 settimane, questo lo segnala un articolo di Renato Farina. Ieri un altro caso che è arrivato anche in Italia, un 19enne in questo caso, situazione più o meno analoga, abuso d'alcol, passione smodata per l'alcol che lo spinge anche ad andare al pub mentre in attesa di trapianto in ospedale. I medici decidono il trapianto non verrà effettuato a te. C'è chi critica questa decisione, c'è chi dice è giusto giudicare lo stile di vita, perché donare a un beneficiario significa poi condannarne a morte un altro. Un tema molto delicato che ci ha spinto a interrogarci su come funziona in Italia, e ne parleremo proprio nel corso di 24 mattino. Prima però facciamo tappa in Germania per incontrare la corrispondente dall'Italia di Die Zeit, Birgit Schönau. Buongiorno. Buongiorno. E la corrispondente dunque dalla Germania. Prima di parlare della tua esperienza in Italia, delle tue impressioni, Birgit, vorremmo chiederti delucidazioni su una notizia che è rimbalzata anche in Italia e riguarda un aspetto forse poco noto della storia post-guerra, post-bellica della Germania, cioè il destino dei cosiddetti disertori, coloro che avevano deciso di fuggire o di nascondersi, insomma di non partecipare a quello che in Germania stava succedendo durante l'epoca hitleriana. E qualcosa si è voltato pagina in qualche modo, sono stati giudicati traditori per decenni e ora? E ora finalmente sono stati riabilitati, cioè il Parlamento tedesco proprio l'8 settembre, che per noi, per la Germania, è la data della capitolazione nel 1945, farà una legge che riabilita questi cosiddetti traditori di guerra, che non erano i desertori, cioè quelli che non partecipavano alla guerra, che sono stati riabilitati anche loro molto dopo la guerra nel 2002, ma si tratta di persone che in qualche modo, secondo la legge nazista, remavano contro le azioni militari del regime. Cioè in che modo? Politico? No, possiamo dire che questa legge sul tradimento di guerra esisteva in tanti stati, per esempio la Svizzera l'ha abolito soltanto nel 92 con la pena di morte, però si trattava di tradimenti di segreto militare per uno Stato, diciamo, democratico. Qui nella Germania nazista si trattava, per esempio, veniva condannato come traditore di guerra una persona che aiutava dei prigionieri di guerra oppure degli ebrei. Comunque non era disposto a collaborare per uno Stato che faceva guerra a tutta l'Europa, oppure in altri termini si ribellava in qualche modo al nazismo. Quindi la guerra totale di Hitler era non solo esterna ma anche interna, e queste persone naturalmente non rientravano nelle linee. Ma quanti saranno sopravvissuti di questi? Cioè oggi è un po' tardivo. Guardi, è stato così che durante il nazismo c'erano più di 20.000 condanne di morte. Se noi facciamo un paragone con la prima guerra mondiale, sempre causata dalla Germania, dal 1907 fino al 1932 c'erano 1.500 condanne di morte, quindi era uno strumento dai nazisti per terrorizzare, diciamo, per il regime, per opprimere la resistenza nella struttura militare, nella Wehrmacht. Beh, è interessante perché è una pagina poco nota questa della resistenza all'interno da parte di tedeschi che non aderivano. E dopo questa riabilitazione del Parlamento probabilmente ci sarà anche meno difficoltà a parlarne di casi documentati, noti, conosciuti, esistono dei sopravvissuti, vengono riportate anche le loro testimonianze. Per esempio Ludwig Baumann, che ha ormai 87 anni ed è il presidente dell'Associazione delle Vittime della Giustizia Militare Nazista, ieri è stato riportato sul Corriere della Sera, racconta di essere stato discriminato, trattato come un reietto per tutta la vita, ma non solo dal sistema, diciamo, dalla legge, anche dall'opinione pubblica, dalla società. Sì, purtroppo questo atteggiamento dell'opinione pubblica persisteva per tanto tempo dopo la guerra, perché sicuramente non fino agli anni, diciamo, fino ad adesso, già negli anni 90 c'era un cambiamento in questo termine, perché c'era una mostra una mostra abbastanza discussa sulla Wehrmacht e sui crimini della Wehrmacht, perché per i tedeschi la Wehrmacht doveva rimanere un po' fuori, non accettavano che anche la Wehrmacht faceva parte del regime. Per loro i crimini furono commessi dalla SS, cioè da reparti speciali che erano chiaramente nazisti, che facevano parte del regime. Invece si trattava di accettare che la Wehrmacht pure faceva parte del regime, che la Wehrmacht aveva commesso dei crimini anche in Italia, e non pochi, se pensiamo a crimini di guerra per esempio in Toscana, che Sant'Anna. Furono commessi dalla Wehrmacht e non dalle SS. Sì. Chiaro, è una pagina di storia interessante che rimane incompleta, che adesso sarà da scrivere per il resto. Birgit Schenau, l'avete sentita, corrispondente in Italia per la Die Zeit, è tra l'altro una storica. E chissà che proprio questa tua passione storica, Birgit, ti abbia portato a scegliere l'Italia per le tue corrispondenze. È proprio così, sono venuta a finire una tesi su Mussolini, giornalista socialista, cioè i primi anni della carriera giornalistica di Mussolini, per questo sono venuta a Roma a studiare negli archivi romani. Ma pensavi poi di rientrare in Germania, immagino? Pensavo poi di rientrare in Germania, dove avevo anche un posto di lavoro, e invece sono tornata qua. Erano anni anche molto interessanti dal punto di vista giornalistico, i primi anni 90, c'era Tangentopoli, succedevano tante cose, quindi lavorare qui era molto interessante. E di cosa scrivevi? Quali sono i filoni di cui ti sei occupata in questo ventennio di copertura dell'Italia? Ma ho descritto molto, diciamo, l'andamento politico dell'Italia, i cambiamenti politici degli ultimi 15 anni, bisogna dirlo. Forse sono qui da troppo tempo, ma tanti tedeschi rimangono qui per troppo tempo, perché stiamo bene qua. E quindi naturalmente ti sei soffermata su Prima Repubblica, Seconda Repubblica, il cambio nel 92, tu eri già qui, Mani Pulite, Tangentopoli e poi tutta l'evoluzione politica, ma immagino che per Die Zeit, che si occupa anche di cultura, società e costume, tu abbia raccontato anche alcuni aspetti così bizzarri o comunque diversi della vita quotidiana. Quali sono? Ma guarda, gli aspetti bizzarri non trovano molto posto nel mio giornale, che è un giornale vecchio stampo che si occupa, forse anche un po' noioso sotto questo punto di vista, che non si occupa di costume. E quindi, diciamo, per quanto riguarda i luoghi comuni sull'Italia, mi sono stati abbastanza risparmiati. E di cosa hai parlato, dunque? Qual è, per esempio, l'ultimo articolo che hai scritto? L'ultimo articolo che ho scritto era un'intervista con Roberto Saviano sulla presenza della mafia, delle mafie italiane in Germania, immagino. Perché soltanto adesso i tedeschi si svegliano un pochettino. Mi ricordo che quando lavoravo nella regione della Ruhr, da giovanissima, che lì già c'erano degli episodi con la 'ndrangheta calabrese a Dortmund, cioè sì. una cosa veramente, stiamo parlando di 20 anni fa, quindi la presenza delle mafie italiane era già conosciuta, ma adesso se ne parla molto. Ma so che ti sei occupata anche per un'altra testata di calcio, volevo farti una domanda. Italia-Germania 4-3, che è una sorta di mito storico, non solo di chi ama il calcio, così fa parte del patrimonio collettivo nazionale. È una partita che gira anche da voi, se ne parla anche da voi? È una partita che gira anche da noi, anche per noi la partita del secolo, perché era una partita epica in cui succedeva di tutto. era molto noiosa per 90 minuti e poi nei supplementari succedeva di tutto, cioè come un po'... vi fa un'ora che ve ne parliate, pensavo fosse stata così posta un pochino in un angolo. No, perché diciamo che il calcio italiano è molto orientato al successo, non si parla più di partite perse, tranne forse... No. Sulla partita con la Corea del Nord ai mondiali del 66, che sono che una partita è diventata leggendaria, anche se persa dall'Italia. E da noi non è così importante il risultato nel calcio come da voi. Quindi si può ammirare anche una grandissima competizione come fu questa partita in Messico. Poi abbiamo avuto i mondiali in Germania nel 2006. Tu hai figli, Birgi? Io ho due figli italiani, che la grande fa il liceo classico a Roma, il liceo italiano, il piccolo va ancora alla scuola svizzera, cioè non alla scuola tedesca. E pensi cresceranno, completeranno gli studi o cresceranno in Italia, nei tuoi ideali, o preferiresti avessero così delle contaminazioni culturali anche tedesche, cioè preferiresti seguissero delle scuole anche in Germania? Ma io credo che la generazione di questi studenti, sia quelli italiani sia quelli tedeschi, sia molto più europea della nostra, cioè hanno più possibilità di scambio culturale con ragazzi di altri paesi, crescono complessivamente in un clima più europeo, e questa è una grande conquista per la loro generazione, per i nostri figli. Anche i giovani italiani vanno molto fuori, si fanno le idee all'estero, studiano all'estero e così via. Quindi io credo che non si possa più educare in una maniera, diciamo, esclusiva, tradizionalmente italiana. Ormai siamo tutti europei. Ci saranno questi interscambi e queste contaminazioni culturali che arricchiscono. Senti Birgit, dopo 20 anni in Italia, cos'è che ancora ti infastidisce o ti irrita? Dopo 20 anni in Italia devo dire che mi dispiace un po' la mancanza di senso civico, che forse sta aumentando purtroppo questa mancanza, un individualismo forse esasperato che si rispecchia anche nella politica di questo paese e che non fa bene all'Italia, non manda avanti il paese, lo allontana dal resto dell'Europa. Tu che sei tedesca, come si può curare? Come si potrebbe curare? Ma ci vuole un po' di volontà, ci vuole anche un po' il senso di rinuncia a certe cose, insomma un senso del comune, cioè se noi vediamo per esempio un dato che mi stupisce ogni anno è il dato degli evasori di tasse, che in qualche modo sono anche politicamente protetti da una certa parte della politica italiana. È una cosa che i tedeschi non riusciranno mai a capire, che qui però è una cosa reciproca, è lo Stato che non ha molta fiducia nei cittadini e i cittadini che non hanno fiducia nel loro Stato, perché è il loro Stato per cui dovrebbero pagare le loro tasse. E non viene vissuta evidentemente questa adesione, un segnale di grande scollamento. Grazie per questa lettura decisamente interessante. E ci vuole sempre quest'occhio forse straniero, portatore di due culture, per capirsi meglio. È un po' un viaggio allo specchio all'interno dell'Italia quello che abbiamo fatto in questo mese. Birgit Schenau, abbiamo fatto tappa con lei oggi in Germania. Buona giornata a voi. Ciao. Ed è corrispondente in Italia per Die Zeit. Sono trascorsi 35 minuti dopo le 8, ancora insieme Irene Zerbini, e gli SMS già esprimono le opinioni contrastanti, diverse, perché la tematica è delicata, su come e se soprattutto vanno utilizzati dei criteri di scelta nel decidere chi potrà essere beneficiario di un trapianto che includano anche lo stile di vita di un paziente. 349-238-6666 per capire come la pensiate voi. Con noi oggi Ignazio Marino, un senatore dell'EPD, ma è in veste di professore da noi, perché Ignazio Marino è sempre stato un chirurgo specializzato in trapianto d'organi, ha lavorato a Cambridge e negli Stati Stati Uniti, ha diretto il centro trapianti della Thomas Jefferson University di Philadelphia. Buongiorno, benvenuto professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Noi siamo partiti da queste storie che rimbalzano in Italia anche dall'Inghilterra o dal sistema anglosassone in generale, in cui appunto viene negato il trapianto, così viene detto in quelle poche righe di brevi che si dedicano a queste cose in genere, al ragazzo di 19 anni perché beve e continua a bere nonostante abbia bisogno di un fegato. Viene negato il trapianto a un ragazzo di 22 anni obeso, alcolizzato, malato di cirrosi perché viene scoperto appunto indulgere ancora una volta nel vizio. In Italia come funziona? Quali sono i criteri che vengono adottati? Ma in realtà non ci sono criteri di legge che possano portare ad escludere una persona dalla lista d'attesa per un trapianto in nessun paese del mondo, soltanto l'unico centro di proprietà del governo degli Stati Uniti che trapianta prevalentemente ex militari, ha una norma per la quale per esempio chi fuma sigarette non può essere trapiantato di cuore o di polmone e chi beve alcol non può essere trapiantato di fegato. Ma il tema è molto vasto e molto complesso. Ci sono due elementi che vanno presi in considerazione. Il primo è che il trapianto è un intervento molto diverso da qualunque altro intervento chirurgico, per il semplice fatto che c'è la necessità di un organo e che gli organi purtroppo non sono sufficienti a salvare tutte le vite che vorremmo salvare. Insomma, ci sono molti meno organi donati rispetto a persone che hanno bisogno di un trapianto. Sono un bene scarso. Purtroppo sì, e questo anche nel nostro paese noi dovremmo attraverso il Ministero della Salute fare delle campagne di informazione continua, perché insomma quando si muore portarsi i propri organi nella tomba certamente non serve a nessuno di noi, mentre ciascun organo potrebbe salvare un'altra vita. Ma detto questo, il problema è un problema che divide. Mi sono trovato diverse volte in discussioni, soprattutto nel mio centro negli Stati Uniti, trapiantare o non trapiantare un paziente perché aveva uno stile di vita che non veniva condiviso dal gruppo che deve prendere la decisione se mettere in lista un paziente. Professore, ecco, lei ha nominato un gruppo, quindi come funziona? Ci sono dei gruppi, per esempio in Italia, ci sono dei gruppi specifici in ogni ospedale, c'è cioè una decisione collegiale? È una decisione collegiale e per fortuna che è così, insomma ci mancherebbe solo ritornare ai tempi in cui la decisione era affidata al singolo chirurgo che aveva davvero un potere discrezionale che io non ritengo sia giusto. Insomma il ruolo non spetta al chirurgo il potere di decidere da solo, di essere un giudice della vita altrui, soprattutto quando poi in questo giudizio entrano i criteri che lei ha citato prima, cioè lo stile di vita, criteri che sono di natura a volte etica e non di natura medica. Insomma, a me ad esempio è capitato diversi anni fa lei sa che negli Stati Uniti c'è una normativa per la droga che è più severa di quella italiana, e mi è capitato che un ex militare, un veterano della guerra del Vietnam aspettava il trapianto di fegato nel mio ospedale e un'infermiera gli ha trovato della marijuana nell'armadietto vicino al letto, ed è nata una discussione. La sua situazione è stata ripresentata, lui era già in lista di attesa, è stata ripresentata al gruppo che decide se convalidare o meno l'attesa per un organo di un paziente, e devo dire che ebbi uno scontro molto forte con un altro chirurgo del nostro gruppo, non ha nessun significato negativo, ma che aveva una visione diversa, non aderiva. Lui è io sono un cattolico di formazione, lui è un mormone, aveva una formazione forse più rigida, e mi ricordo molto fortemente l'esempio che fece. Dice: ma come vuoi dare un organo per salvare un drogato e magari lo neghi perché non ce ne sono? Una madre di famiglia, sì. Bravissima, una mamma che deve crescere due bambini. È chiaro che questo argomento può fare molto effetto, ma insomma io non credo che quel fatto di avere della marijuana perché magari ti senti un po' più tranquillo e ti aiuta a superare dei momenti di grande tensione e comunque una tua scelta di vita debba diventare una condanna a morte e quindi negare il trapianto. E dopo una discussione molto accesa io riuscii a convincere tutti che era giusto trapiantare questo signore e mi commossi, devo dire, quando dopo il trapianto, finita tutto il periodo post-operatorio, lui chiamò sia me che l'infermiera che aveva scoperto questo suo nascondere la busta con la marijuana nell'armadietto e ci consegnò quello che aveva questa marijuana, dicendo che insomma lui si era convinto che col fegato nuovo si sentiva bene, non ne aveva più bisogno. E quindi c'è anche questa storia nella sua esperienza personale, però chiaramente lei ha potuto valutare sul campo. Tra l'altro vorrei ricordare che Ignazio Marino nel 2001 fu il primo a effettuare un trapianto in Italia su un paziente sieropositivo e ricordo quello suscitò diverse polemiche perché c'era chi, come il ministro della sanità Girolamo Sirchia, diceva: come lei preferisce donare la vita a una persona che non dà le stesse garanzie, diciamo così, di sopravvivenza rispetto ad altre persone che sulla carta, poi sempre una decisione delicata. Ma prima di passare alla discussione, posso dire solo una cosa, sì. Che non solo non ci fu entusiasmo, ma addirittura il Ministero della Salute, il Ministro della Salute, il Ministro Sirchia mi inviò una lettera ufficiale di censura per il mio comportamento perché avevo trapiantato un paziente sieropositivo. Grazie a quel trapianto, voglio innanzitutto dire che è avvenuto il 17 luglio del 2001, sono passati 8 anni e quel ragazzo sta benissimo, è in ottima salute, ma soprattutto dopo la discussione che si aprì anche in Italia, oggi si possono trapiantare i pazienti sieropositivi, quindi si è abbattuta un'altra barriera che su una base di pregiudizio escludeva delle persone e le escludeva dalle cure. Senta, adesso le vorrei sottoporre però le riflessioni dei nostri ascoltatori, ci stanno scrivendo molti al 349-238-6666 e dicono che chi dona riceve e chi non è donatore deve essere fuori dalle liste. Questa è una riflessione. E qualcuno dice poi che per guidare si deve essere sobri e affrontare un trapianto è molto più impegnativo che guidare, di conseguenza se ne deduce, ci segnala Maurizio, che se non è sobrio, se torna a bere, dovrebbe il candidato così essere escluso dalla lista. E ancora Angelo da Cuneo: sì alle discriminazioni sui comportamenti, perché bisogna fare il possibile perché il trapianto vada a buon fine, anzi dice è doveroso che il collegio di medici faccia delle distinzioni. Cosa risponde, professor Marino? Che sono tutte osservazioni che nella mia vita ho sentito. Vorrei vedere se ciascuno di questi che scrivono avesse un figlio amatissimo, una mamma che ha una dipendenza dall'alcol e che rischia di morire se non viene trapiantato. Anche in questo io penso che c'è certamente ragione nelle parole che sono arrivate attraverso le email dai nostri ascoltatori e io ho sempre cercato nella mia professione di arrivare ad avere un periodo di riabilitazione per chi beve alcol, perché l'alcol non è una questione di stile di vita ma danneggia il fegato, quindi trapiantare un fegato che poi venga danneggiato dall'alcol ovviamente non è certamente un buon progetto. Ma mi è anche capitato, e non lo dimenticherò mai, un signore della California che lavorava nel mondo del cinema, nel mondo dello spettacolo e beveva alcol e si era gravemente ammalato e a un certo punto è entrato in coma. Io mi sono trovato circondato da una famiglia davvero molto amorevole nei suoi confronti, che mi hanno assicurato che avrebbero fatto di tutto dopo il trapianto per farlo smettere di bere. Non c'era la possibilità di parlare con il paziente, era in coma e sarebbe morto probabilmente nel giro di pochissimi giorni. E quindi cosa ha deciso di fare? L'ho trapiantato e anche quel paziente non ha più avvicinato l'alcol. La famiglia lo ha aiutato, è andato da un professionista, da uno psichiatra che l'ha aiutato anche lui, ma insomma per me è rimasta la gioia di aver potuto prendere la decisione giusta di salvare una vita. Insomma, non credo che in medicina possiamo darci delle regole assolute che possano decidere della vita e della morte degli altri. Ogni situazione va valutata con professionalità, ma voglio anche dirlo, con grande senso di umanità. E torneremo tra poco a questo tipo di valutazioni. Il Centro Nazionale Trapianti ieri ci ha spiegato poi che in Italia esiste un percorso particolare per seguire questi pazienti. Potete anche scriverci a 24mattino@radio24.it. Ora vorremmo fare un salto indietro nel tempo. Oggi si parlava della campagna necessaria a pubblicizzare la donazione degli organi, le campagne che vengono fatte poi un po' in tutti i paesi, devo dire con qualche effetto in Italia, visto che l'Italia è tra i paesi più virtuosi in Europa e nel mondo. Era il 9 settembre del 1987, Nicholas Green, un bambino statunitense, veniva assassinato da una pallottola vagante sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Cioè lui era con i genitori, assolutamente ignari alle vicende di quanti si stavano sparando addosso naturalmente, e con i genitori è stato colpito da questa pallottola che lo ha ucciso. Ebbene, il padre, Reg Green, poteva semplicemente tenersi il suo lutto, decise invece di fare di quell'episodio drammatico della sua vita l'occasione di vita per altri e di donare gli organi di Nicholas Green. E questo gesto ebbe molto effetto a livello di emulazione. Si impennarono le richieste di donazione da parte degli italiani. Qualche tempo fa abbiamo avuto Reg Green proprio a Radio 24 e ci ha raccontato questa esperienza. Sentiamolo. A quel tempo pensai che avevamo un'opportunità. Dire a tutto il mondo che c'era una grande necessità di donazioni di organi e che questa mancanza causava migliaia e migliaia di morti all'anno, spesso bambini e qualche volta neonati. Per cui in quel momento mia moglie Maggie e io decidemmo che avremmo fatto qualsiasi cosa per diffondere quel messaggio. E oggi non siamo ancora stanchi di farlo. Possiamo vederne i risultati. Uno dei risultati è che in Italia le cifre della donazione di organi sono triplicate da quando Nicholas è stato ucciso. Ovviamente questo non è attribuibile solo a quella storia. Ci sono molte persone impegnate in Italia che stanno lavorando per lo stesso obiettivo. Ma sono sicuro che tutti saranno d'accordo se dico che la storia di Nicholas fece da catalizzatore che aiutò a cambiare il punto di vista dell'Italia sulla donazione degli organi. Abbiamo incontrato tutti quelli che hanno ricevuto gli organi di mio figlio, alcuni anche più volte. Ce ne sono 7. Senza il trapianto, 2 di loro sarebbero ciechi, molti, se non tutti, sarebbero morti. Oggi, 11 anni dopo, sono tutti vivi. E la maggior parte di loro non è mai stata più sana di oggi. Questo è molto gratificante per noi, soprattutto vedere i bambini che crescevano diventare adulti, prendere la patente, superare esami, e vedere gli adulti che tornavano al lavoro. Tutto questo ci ha fatto un enorme piacere. Credo che Nicholas sarebbe stato orgoglioso. Credo che anche lui sarebbe stato soddisfatto di questa azione perché amava la gente. I suoi insegnanti dicono che era il bambino più generoso che avessero mai incontrato. Una di loro ha detto una cosa molto interessante. E cioè che in qualche modo lui era il suo insegnante, che lui le insegnava molto. Perché quando eri con Nicholas volevi sempre dare il meglio di te stesso. E così sono certo che lui ha visto questo risultato e ha detto: sì, questo è straordinario. Un'esperienza toccante. Continuano intanto le segnalazioni degli ascoltatori e c'è qualcuno che ci dice che in Italia un suo conoscente è stato tolto dalla lista d'attesa per un trapianto di fegato proprio a causa della perseveranza nell'assunzione di alcol. Ci diceva il Centro Nazionale Trapianti: non riusciamo questa mattina ad avere in linea tutti gli ospiti per problemi e sulle loro linee telefoniche, si trovano all'esterno, ma era prevista la partecipazione del professor Alessandro Nanni Costa, cioè del direttore. Ci diceva che esiste sono dei percorsi di sostegno dei pazienti alcolizzati, cioè se dimostra il paziente di voler cambiare, di voler uscire dal vizio del bere, insomma di metterci volontà, viene aiutato naturalmente anche con degli esperti, non semplicemente lasciato così alla sua, alle sue decisioni, viene affiancato da persone che lo possano sostenere, è così? È assolutamente così, questo avviene in Italia, avviene in tutti i paesi del mondo dove si eseguono i trapianti, in particolare per il fegato, se il problema è l'assunzione di alcol. Dal punto di vista medico si ritiene che sia opportuno avere almeno 6 mesi di astensione documentata, ma in questo caso, ecco, voglio sottolinearlo, non è legato questo tipo di indirizzo al fatto che quella persona ha uno stile di vita disdicevole, come non so chi fuma la marijuana oppure chi voleva negare i trapianti ai sieropositivi. In questo caso c'è un legame diretto tra l'assunzione di alcol e la malattia del fegato e quindi si vuole prevenire che la dipendenza dall'alcol, insomma riprendere a bere, possa danneggiare il fegato trapiantato. Questo avviene anche in altri settori come nel trapianto di cuore o nel trapianto di polmone, dove si cerca di evitare di trapiantare persone se si ha la certezza che ricadranno nel fumare non so 80 sigarette al giorno e danneggeranno quindi immediatamente il polmone ricevuto. Insomma, vorrei distinguere tra quello che è una decisione di carattere etico e una decisione di carattere medico. Beh, comunque non deve essere facile al momento poter stabilire o prevedere anche come si comporterà una persona. Per esempio, il criterio dell'età, i casi che arrivano dall'Inghilterra parlano di giovanissimi a cui è negato il trapianto, c'è un 19enne, un 22enne. Non c'è nessuna considerazione per la giovane età, non c'è priorità verso i più giovani, per esempio, perché è un criterio così non soggettivo. Il criterio, diciamo, di precedenza, chiamiamolo così, nella lista d'attesa per un trapianto tiene conto dell'età soltanto se si è al di sotto dei 18 anni, cioè se si viene considerati bambini o adolescenti, e c'è una lista che ha una sua priorità, una lista nazionale. Invece passata, diciamo, la maggiore età, non viene data precedenza a un ragazzo che abbia 23 anni rispetto a un uomo che ne ha 64, ma anche qua bisogna capire che ci sono delle motivazioni serie, perché chi può giudicare che quella vita di 24 anni è più valida e più importante di quella di 64? Credo che sarebbe un errore, sarebbe di nuovo un'introduzione di un criterio etico a quello che invece la medicina dovrebbe tentare di fare nei confronti di tutti, aiutare le persone quando stanno male. Grazie per questa partecipazione, professore Ignazio Marino, senatore del PD. Naturalmente c'è anche chi scrive che la sua partecipazione è dovuta alla mia volontà, in particolare io credo, di fargli pubblicità. E sapevamo naturalmente che intervistarla avrebbe potuto anche dare adito a questo tipo di malignità. Ovviamente chi vinca poi le primarie nel PD mi lascia completamente indifferente. L'ho intervistata in quanto il primo professore italiano che abbia mai deciso di sottoporre a un trapianto un paziente sieropositivo, con le conseguenze che avete sentito. 349-238-6666, conclude 24 mattino, potete continuare a scriverci. Buona giornata, professor Marino. Grazie. Grazie, grazie davvero. E come vede non abbiamo parlato di politica. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. La linea va ora a 9 in punto. Da Irene Zerbini, l'augurio di una buona giornata.